Job 24. Bentrovati a Job 24. Iniziamo la settimana lavorativa con le professioni dell'Information e Communication Technology. Un settore colpito come molti altri del resto dalla crisi. I dati sono stati diffusi di recente. Nei primi sei mesi del 2009 la domanda di software e hardware è calata in Italia del 9% rispetto all'anno scorso, e questo naturalmente desta preoccupazioni anche in relazione ai posti di lavoro. Ciò nonostante, all'interno del settore ICT ci sono delle figure professionali che continuano ad essere richieste e che sono destinate a spingere la ripresa. Inutile dire che i giovani informatici farebbero bene ad orientarsi su di esse. Ma quali sono queste tre professioni? L'ho chiesto a Paolo Angelucci, presidente di Assinform, l'associazione di Confindustria dell'Information and Communication Technology. Allora, diciamo che sono una figura tecnologica e due figure, mi lasci dire, di business. La figura tecnologica è la figura dello sviluppatore che conosce le nuove metodologie di software, quindi linguaggi come Java, database, mondo open source, agile programming. Lo so che sono parolacce, ma per gli addetti ai lavori o quelli che pensano di essere futuri addetti, qualche cosa dovrebbero dirlo. Quindi la prima figura è una figura tecnologica che va accoppiata a un'altra figura tecnologica, quindi in realtà sono una e mezza, che è l'amministratore di sistemi complessi, che è la contropartita del primo. Poi ci sono due figure relative ai processi di business, che sono una figura di sviluppatore di applicazioni di business intelligence, cioè quelle che l'azienda usa per controllare i dati, fare le previsioni e tutto quanto, e una seconda figura che è quella del controllore di gestione barra processi, cioè una figura che è a metà strada tra l'informatica e gli affari, nel senso che controlla l'azienda come funziona e fa da interfaccia tra i processi organizzativi dell'azienda e la parte applicativa tecnica vera e propria. Queste sono le figure professionali che troveranno, diciamo, agio in un prossimo futuro o anche nell'immediato? No, secondo me anche nell'immediato, perché questa crisi è il momento in cui molte aziende vanno a fare investimenti nel rinnovamento dell'organizzazione, e in particolare le ultime due sono le più necessarie, perché ridisegnare un'azienda intorno alle nuove modalità, ai nuovi paradigmi tecnologici, richiede una profonda revisione dei processi che dà grandissimi vantaggi nel medio e lungo periodo, ma ha bisogno di figure che sappiano fare questo mestiere. Qual è la formazione ideale per queste figure professionali? Beh, per le prime due, la prima e mezza, anzi mi scusi, è prevalentemente tecnica ovviamente, bisogna avere un grosso background in informatica, con una forte logica matematica dietro le spalle. Le seconde due, al contrario, possono venire quasi da qualunque tipo di studio superiore, purché ci sia alla base un minimo di conoscenza dell'organizzazione aziendale, quindi va bene qualunque tipo di laurea, anche diciamo così economica, in parte anche umanistica probabilmente, l'importante è che ci siano dei processi logici buoni e ovviamente, propedeutico per tutti, la capacità di usare strumenti informatici. Quando lei parla di un forte background a livello informatico in relazione appunto alla prima figura e mezza di cui ha parlato, le aziende cosa si aspettano? Perché spesso i ragazzi non sanno come muoversi, mi fermano al triennale, provo a fare i primi passi, la prima esperienza sul campo, mi serve di più, continuo nella magistrale, piuttosto mi specializzo con un master. Allora, le aziende si aspettano delle persone che più possibile siano, diciamo così, operative. Allora, per quanto riguarda la prima figura e mezzo, mi lasci dire, quindi tecnici, la laurea quinquennale non è, diciamo così, scartata a priori, perché porta una formazione molto forte. Anche la triennale va bene, purché ci sia la chiarezza che tra la triennale e il biennio successivo bisogna fare un periodo di lavoro importante. Per invece quanto riguarda le seconde funzioni del business, lì penso all'ingegneria di gestione dei processi, all'ingegneria dei sistemi, e lì la triennale forse è meglio, perché poi l'applicazione dentro l'azienda diventa premiante rispetto al fatto di aver studiato 5 anni teorici. Era Paolo Angelucci, presidente di Assinform, associazione di Confindustria dell'Information and Communication Technology. Il sito è www.assinform.it. E se vi siete persi qualcosa, voglio ricordare che questa e altre puntate di Job 24 sono archiviate nel nostro sito, quindi potete riascoltare o scaricare liberamente. Il sito è www.radio24.it. Se avete dei temi legati al lavoro da suggerire o delle domande da porre, l'indirizzo email è job24@radio24.it. È davvero tutto, ci ritroviamo domani. Un saluto da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.